geologo naturalista, che è direttore del Museo del Fiume di Nassano, e anche lì appunto la memoria delle cose e della natura ci aprirà altre pratiche. Allora, in chiusura, Tamara, e anche tutti i riferimenti internet per saperne di più. Sì, l'ultimo ospite di cui non ho parlato sono delle immagini bellissime di un progetto importante su Taranto, il progetto Green Route, finanziato da Fondazione Con il Sud in collaborazione con Ecom, che insomma ci aprirà un altro sguardo anche sulle buone pratiche in quelle città metafora anche della rovina e dell'inquinamento. Ci sarà sempre l'artista Elena Bellantoni con il progetto Il Coro, e infatti ci sarà l'intervento artistico di Laura Cionci con un bel video, Il Giardino Segreto, che aprirà appunto il Red Reading, insieme poi agli adolescenti del progetto di Ostia, Teatro del Lido, diciamo, Anco Marzio. Tutto ciò il 14 giugno alle ore 20 al Teatro di Villa Torlonia. Perfetto. Un abbraccio da Mara e ci si vede lì. Sì, un grande abbraccio, a presto. Venite a trovarci nel giardino di Clemont. Grazie. Ciao.